Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E con il lavoro avevo perso il prestigio, una condizione sociale e gli amici. Perché a 53 anni non ti ricicli più. Subito avevo fatto di tutto, dal guardiano notturno nei cantieri al portiere d'albergo. E da un anno e mezzo ero diventato assistente tecnico, che è una maniera carina per dire che facevo poco più che il bidello presso l'Università di Verona. Eppure non avevo smesso di sognare. Mi chiamo Enzo Salvetti, vivo a Verona, sono sposato, ho 58 anni, 3 figli e mi sono laureato in economia. È il 25 di aprile, un buon 25 aprile a tutti quanti. La notizia di oggi è che se non siete a Bolzano dovete andarci. Se siete a Bolzano siete più fortunati, più di noi anche, che in realtà siamo rimasti a Milano. Perché non siamo andati a Bolzano anche noi invece che rimanere qui in via Monterosa 91, scusatemi. Quindi tutti quanti a Bolzano oggi, perché dal 25 di aprile, cioè da oggi, è in corso praticamente da questa mattina, credo, fino al 1° di maggio, si svolge quello che si chiama letteralmente, ve lo leggo proprio parola per parola, è il Festival delle Resistenze Contemporanee. Allora, che c'è crisi lo sappiamo tutti, questa è la radio che diciamo ne è bandiera, non è bandiera perché ne è in crisi, perché parla della crisi da mo', perché quando c'è la crisi uno vuole sentire come vanno le cose e quindi ascolta ancora di più questa radio, perché la passione si sente. Che c'è crisi lo sapevamo, c'è qualcuno che ormai moltissimi che trovano un modo per resistere a questa crisi, al punto che è nato un festival, è nato credo da 2 anni, forse 2 o 3 anni, che parte appunto oggi e dura fino al 1° di maggio e si tiene a Bolzano. In onore di questa giornata, in onore di questo festival, oggi abbiamo un unico argomento che si chiama resistere. Resistere alla crisi, qualsiasi sia la crisi che state vivendo, molto probabilmente quella economica, ma anche qualche crisi magari personale, intima, sentimentale. 349-238-6666. Per farlo quindi oggi raccontiamo una grande storia, che è la storia di Enzo, che è la persona che avete sentito in apertura, che ha fatto della resistenza un motto di vita, cioè ha detto vado avanti e si è laureato, e a breve sentirete la sua storia, che è proprio una bella storia. Sentiremo la sua storia, ma sentiremo anche la storia di Daniele, che invece è rimasto senza lavoro e si è creato un sito in cui faceva quello che faceva prima, ma lo fa in maniera diversa. E poi più tardi storie invece di resistenza, una storia che arriva da Bolzano, giusto? Dov'è? Ne parliamo dopo, ne parliamo direttamente con la persona che ha creato questo negozio. Il negozio dove non si paga. È stato aperto il negozio dove non si paga, qualsiasi sia il modo in cui resistete. 349-238-6666, c'è anche un profilo Facebook, è sempre quello, anche il 25 di aprile. È Matteo Caccia, io sono qui. Giordano mi scrive: mi sono appena laureato e alla fine di uno stage di 6 mesi mi hanno proposto un altro stage di 6 mesi senza nemmeno rimborso spese. Quindi probabilmente prima aveva rimborso spese e poi manco più detto. Ho detto di no e mi sono messo a coltivare la terra. Grande Giordano. Quindi Giordano è uno di quelli che ci ascolta o sul trattore con la radiolina, oppure con gli auricolari. C'era uno che tagliava, dov'era? A Vinitaly. Ci aveva detto di salutare uno che tagliava la vite nella vigna, immagino, con gli auricolari. Resistere. Siete a Bolzano, ripeto, il Festival delle Resistenze. Altrimenti potete scrivere la vostra storia di resistenza a qualsiasi crisi, quella economica, da quella economica in giù a cascata tutte le altre. A voi siete qui, @radio24.it, ma anche sul profilo Facebook, che è sempre quello. Matteo Caccia, io sono qui. Allora, vi dicevo, 2 storie oggi. La prima è quella di Daniele, si chiama Daniele ed è la storia di un comunicatore. La seconda è quella di Enzo e parla di resistere laureandosi. Storia di un comunicatore disoccupato diventato comunicatore di casi di successo. Caro Caccia, sono Daniele. Sono un giornalista professionista e un comunicatore. Sono rimasto senza lavoro quasi un anno fa e da allora sono alla ricerca di un senso adeguato alla mia nuova dimensione di vita. Ho investito su me stesso, sulle mie conoscenze e competenze, sui rapporti e su una semplice intuizione: mantenere uno sguardo positivo per trasformare la crisi in una nuova partenza. Così ho avviato un'attività imprenditoriale che mi facesse stare il più vicino possibile all'esperienza di chi ogni giorno fa e continua a fare impresa, tra le mille difficoltà di un paese assai poco propenso a valorizzare chi riesce a vincere la crisi. con un sito di mia ideazione e conduzione, Vox Fabrica, ho cominciato dal 1 marzo scorso a raccontare, in tempo di crisi, storie e casi di eccellenza di quell'Italia che ancora funziona. Storie di imprenditori, soprattutto di piccoli e medi industriali, che consentono alla loro impresa, ai loro collaboratori e a tante famiglie all'intero paese di guardare con residua ma ben riposta fiducia ai tempi futuri. Tutte le storie che racconto nel mio sito Vox Fabrica in forma di notizia d'attualità economica testimoniano di un'incrollabile capacità di resistere sia alle dinamiche a volte incontrollabili del mercato sia alle pressioni e oppressioni imposte sulle imprese da un sistema paese in perenne stato di emergenza finanziaria. Nel mio piccolo ho fatto e sto facendo una fatica immensa a fare decollare questa mia nuova attività. Le risorse delle imprese sono davvero ridotte al lumicino. I tagli imposti dalle riduzioni dei margini rendono difficile agli imprenditori cogliere opportunità e servizi che potrebbero essere veramente utili. E le incertezze sull'evoluzione del mercato rendono prudenti anche imprese che in realtà stanno andando bene, soprattutto con l'export. Eppure, come loro, anch'io continuo a resistere. A mantenere uno sguardo fiducioso e a pensare che le idee, quelle buone, troveranno sempre gambe su cui camminare. Proprio come quelle migliaia di piccoli imprenditori che, anche in questo momento preciso, stanno camminando in Germania, in Cina o in qualche altro territorio da conquistare. E portano nel mondo quell'inesauribile via italiana all'industria che mette insieme ingegno, competenza tecnica e amore per la qualità del prodotto. Daniele Garavaglia, direttore Vox Fabrica. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Questa è la storia di quel che successe in un pomeriggio del novembre 2009 nell'aula magna dell'Università di Macerata, durante la sessione di laurea in economia. Mia moglie, i miei figli e tante altre persone che non riuscivo a vedere a causa della tensione nervosa erano lì per me. E io non ero dietro la cattedra, ma davanti, pronto per essere giudicato. Mi tornavano in mente tutti i miei 56 anni, di cui quasi 30 trascorsi fra la mia città Verona e il resto d'Europa. E un po' mi chiedevo cosa diavolo ci facessi lì. Prima di perdere il lavoro io ero export manager in un'azienda che si occupava di cartotecnica e precedentemente ho lavorato nel settore alimentare come amministratore di una società in Germania. E io ero l'amministratore delegato della filiale tedesca, nonché direttore di tutto quanto l'estero. Mia moglie mi guardava fisso, questo lo sentivo. Aveva una borsa di carta di quelle che ti danno nei negozi quando acquisti qualche cosa di nuovo e pensavo che forse era un regalo per me, ma non potevo saperlo. Mi aveva chiesto se stavo bene e se avevo dormito la notte precedente. Sì, ero a posto. Mia figlia invece mi diceva qualche cosa sull'università e su come ci si deve comportare davanti a una commissione di laurea. Lei c'era già passata e conosceva bene tutta la procedura. Mi aveva elencato minuto per minuto quali sarebbero stati i passaggi della presentazione. Mio figlio invece, con lo sguardo attento, ascoltava dall'alto del suo 1,90 m le discussioni dei candidati che si succedevano uno dopo l'altro davanti alla commissione. Io non sentivo nulla. Seguivo l'ordine alfabetico dei candidati e vedevo scorrere davanti agli occhi gli ultimi anni di un lavoro che amavo e che avevo perso. Pensavo ai miei sogni, alle città che avevo conosciuto e alle persone che avevo incontrato. Al mio ruolo nel mondo che si era dissolto, come il mio mestiere, andato in fumo. Con il lavoro avevo perso il prestigio, una condizione sociale e gli amici. Perché a 53 anni non ti ricicli più. Subito dopo la perdita del lavoro, circa 3 anni prima, avevo fatto di tutto. Dal guardiano notturno nei cantieri al portiere d'albergo. E da 1 anno e mezzo ero diventato assistente tecnico, che è una maniera carina per dire che facevo poco più che il bidello presso l'Università di Verona. Eppure non avevo smesso di sognare. Mi ero iscritto all'università ancora quando ero nell'ultima azienda, quella di cartotecnica. Io avrei dovuto fare il primo esame dell'università esattamente il giorno dopo in cui mi hanno licenziato. E sono andato a farlo anche. Mi veniva da piangere. Ho detto no, lo faccio, ci vado, è andato malissimo. E l'ho fatto il mese dopo e mi ricordo, eravamo alla cinquantina, sono stato l'unico che l'ha superato. Dico, beh, insomma, non sono proprio così da buttare via, nonostante abbia una certa età. La tensione saliva, ad ogni ora sempre di più. Mi si erano presentati dei sudori freddi che non ricordavo dai rigori dei mondiali. E il mio colorito era ormai cinereo. O almeno così mi diceva mia moglie, cercando con dei buffetti di farmi tornare un po' di sangue sulle guance. Sentivo le labbra rimpicciolirsi, tendersi. Erano secchissime. E io continuavo a chiedermi cosa facessi in quell'aula bellissima davanti a una commissione di professori con toga nera e bardatura gialla, alcuni dei quali, tra l'altro, molto più giovani di me. Mia moglie mi diede un bacio sulla guancia e mia figlia si alzò andandosene dal posto che occupava alla mia destra. Contemporaneamente si alzò anche mio figlio e mi resi conto che ero solo, solo con i miei pensieri. Era tempo di affrontare la commissione. Durò tutto una ventina di minuti. Dopodiché mia moglie estrasse dalla borsa una bella coroncina d'alloro con fiocchetti gialli e mia figlia mi strinse al collo e mi baciò in fronte. Mio figlio invece, polemico come tutti gli adolescenti, mi si avvicinò, mi mise le mani sulle spalle, mi guardò molto seriamente, tipo Marlon Brando nel Padrino, e con tono greve mi disse: «Vabbè, perlomeno vuol dire che non sei ancora rintronato, questa è già una buona notizia». Da poco ero dottore in economia. Il 25 aprile si parla di resistenze, di resistere in qualche modo alla crisi o alle diverse crisi che arrivano, e lo facciamo come se fossimo a Bolzano. Siamo a Milano, ma è come se fossimo a Bolzano al Festival delle Resistenze, insieme a tutti quelli che sono lì in questa primissima giornata del festival, che dura fino al 1° di maggio, giusto per dare le date precise. Silvio scrive: ho venduto la moto e la macchina e resisto girando solo a piedi in bicicletta. E vabbè, questo è un modo. E poi Piero ancora: mi sono licenziato e con la liquidazione mi sono aperto un bar dove vendo solo tè di tutti i tipi. Questo probabilmente è un modo per resistere alla crisi ed è specializzarsi in qualcosa. Ma la main story, come ci piace chiamarla qui, cioè la storia di oggi, è chiaramente la storia di Enzo, che ha fatto una cosa che sembra veramente sembra semplice a dirlo, ma non lo è a farsi, immagino, ed è semplicemente si è messo a fare delle cose, e la cosa che ha fatto è stata laurearsi. Pronto, Enzo? Sì, pronto, ciao. Ciao, buongiorno e grazie per essere qui. Ma niente, grazie a te per avermi chiamato. Senti, sì. La tesi è su che cos'era? Ma era progetto per acquisizione d'azienda tramite piano di risanamento. Era un lavoro che avevo fatto in Germania quando lavoravo per un'azienda di marmi, sì. Un tentativo di acquisizione di un gruppo industriale tedesco da parte di una cordata di imprenditori italiani. Erano 5 anni di lavoro e quindi la conoscevi benissimo. Nella mia tesi. Lo conoscevi benissimo e l'hai semplicemente scritta, sì, raccontata. Ho tradotto un po' di materiale dal tedesco all'italiano e l'ho messo insieme, insomma, era il mio lavoro, la Senti, mia vita. Senti, Enzo, facciamo un passo indietro allora, cioè, perché tu ci hai raccontato quel momento lì, il momento della laurea, però facciamo un passo a quando la prima volta ti hanno detto forse potrebbe essere che non ci serve più, non ci serve più il tuo lavoro e non ci servi più tu. Quando è successo? Il giorno prima di fare l'esame di economia aziendale. Cioè, quanto tempo prima rispetto alla laurea? 3 anni prima, 3 anni e mezzo a dire la verità. E da lì, dal momento in cui ti hanno detto, che formula si usa in quei casi con una persona di 50 anni che lavora in un'azienda da quanto, 30? In quell'azienda lì ero da 5 anni. Ah, da 5. Mi era già capitato prima, perché l'azienda animale in cui lavoravo aveva già chiuso i battenti nel 2000, agli inizi della crisi, nel 2002. Sì. Questa invece iniziava ad andare in crisi. Mm-hmm. E diciamo, ma se ti dirò, sai, usano delle formule anche abbastanza poco eleganti, sul tipo, beh, sa, la situazione è quella che è, lei costa un po' troppo, ci arrangiamo con la signorina, tanto ormai adesso il mercato l'abbiamo fatto, mi basta una signorina che parla un paio di lingue, ci arrangiamo. Senti, e che cosa... Arrivederci. No, diciamo più esattamente, io avevo chiesto 3 giorni di ferie per andare a fare l'esame. Sì. E mi hanno detto, puoi anche restare a casa. Scusami, e cosa fa una persona, sì, una persona di 50 anni a quel punto? Nel senso che... 53. Vabbè, sì, insomma, 50-53, insomma, non buttarti giù sull'età. No, dai, scherzo. Una persona di 53 anni che non ha, ma guarda, da un punto di vista pratico proprio, che non ha impegni la mattina, il pomeriggio, che non deve più alzarsi a quell'ora. Cioè, cosa fa? Prende seconda mano. La verità. Allora, dimmelo. La prima reazione, io mi nascondevo sotto il letto per non farmi vedere le mie figli che ero senza lavoro. Dopo 3 giorni mia moglie ha detto: Enzo, guarda che devi affrontare la cosa, non possiamo far finta di niente. E abbiamo chiamato i figli, gli abbiamo detto: guardate ragazzi, oggi si cambia vita, non è più come prima, papà è in questa situazione, non ha più lavoro, deve trovare il modo di arrangiarsi. E lì ho iniziato, la prima cosa che ho fatto il giorno dopo, mi sono presentato una cooperativa per andare a fare guardiano di notte nei cantieri di lì. E hai cominciato a farlo? Sì, ho cominciato ad andare con la macchina, andavo là la sera e guardavo che non mi rubassero gli scaldabagni appena installati nei cantieri. Però è un modo come un altro, cioè capisci, per dire sì, ci sono ancora, ecco, non è un lavoro come, sì, come sì, chiaro, chiaro. Ogni lavoro è dignitoso a un certo punto, non importa che cosa, a questo punto devi dire cosa fai, non posso mettermi a piangere e a continuare a rimurcinare su ciò che è e ciò che non è. Visto che questo è un periodo, va bene, parlano tutti, e in particolar modo Radio 24 se ne parla di questo dramma vero e proprio, no? Delle persone, soprattutto imprenditori, tra i quali si è alzato notevolmente il tasso, il numero dei suicidi, delle persone che vivono una condizione molto difficile. Guarda, ho avuto dei colleghi che hanno fatto delle scelte di questo tipo. Tu hai un consiglio da dare a una persona che si trova o sta per trovarsi o si trova o si è trovata nelle tue condizioni? Sì, se io posso dare un consiglio è semplicissimo. Non pensare a ciò che è stato, guardare a quello che hai, a ciò che hai, stringerti ai tuoi affetti e guardare il futuro in maniera positiva, perché poi la speranza c'è sempre. Può essere, durerà 1, 2, 3 anni, ma prima o dopo un modo per venire fuori c'è. Bisogna volerlo. Tu cosa stai facendo adesso, Enzo? Io adesso lavoro qui, ho vinto un concorso come assistente tecnico di laboratorio, poco più di bidello, mi viene un po' da ridere, e mi occupo della manutenzione di piccoli macchinari. Ma dove? In università? All'università, qui a Verona. E che orari fai, quindi? Ma dalle 7 della mattina alle 3 del pomeriggio. E come ti senti? Diciamo, mi sento, né bene né male. L'ambiente è buono perché fondamentalmente, chiaramente, essendo un ambiente tutto sommato di una certa cultura, capiscono anche la mia situazione e per cui mi trovo splendidamente bene. Poi dopo, sai, il resto è far quadrare i conti a fine mese, che comincia a essere un po' più difficile. Certo, senti, invece un progetto tuo per il futuro ce l'hai? Hai in mente qualcosa di particolare? No. Ce l'ho. E Madonna, se ce l'ho. Se poi sei andato a fare un po' di ricerche su Facebook, l'hai trovato. Solo che non fosse, cioè, in questo periodo a me non parlare. Va bene. Ho un progetto molto chiaro e molto preciso. Vorrei sfruttare un attimino tutto quello che ho vissuto, visto e conosciuto lavorando sull'estero e riportarlo qua in Italia. Però è una cosa un po'. Se vuoi finire che si fa propaganda, allora non va bene. Va bene, Enzo, senti, ti ringrazio moltissimo per aver raccontato la tua storia e in bocca al lupo per tutto. Ma niente, grazie a te per avermi chiamato. Ma di cosa? Buona giornata, ciao Enzo, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Il 25 aprile c'è la borsa? C'è la borsa anche il 25 aprile, è incredibile, loro non mollano mai. Quindi adesso la borsa e poi si torna a resistere qui a Radio 24. Voi siete qui. Dovete, se non siete a Bolzano, dovete assolutamente aprire un computer e andare a guardare la foto di Enzo sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui. Questa foto non me la conta giusta. C'è qualcosa dietro questa foto, Enzo. Dietro questa foto c'è il tuo progetto per il futuro, io l'ho capito. Sei troppo ben pettinato, sei troppo in posa e c'è troppo una bellissima aura di luce intorno a te. Questa foto non me la conta giusta. E io ho capito cosa c'è dietro questo progetto. L'ho capito anche perché durante la pausa io sono andato sul Facebook di Enzo e ho scoperto che nel progetto futuro di Enzo c'è della politica. Ma mi fermo qui. perché altrimenti facciamo propaganda, però c'è della politica. E secondo me il physique du rôle per fare della politica Enzo ce l'ha. 349, in bocca al lupo, 349-238-6666, oppure voi siete qui, chiocciolaradio24.it. Tra l'altro a me è venuto in mente l'incubo del giorno della mia laurea, proprio leggendo la storia di Enzo. Lì, diciamo, non c'era una crisi nella mia vita, c'era semplicemente il fatto che avevo deciso di fare il grosso e mi avevano chiesto, mi avevano detto, si sieda pure, e io avevo detto, no, sto in piedi. E avevo fatto una figura orribile, il solito imbecille, va bene. Sono andato sul sito, scusa, perché vorrei tanto essere a Bolzano, invece siamo qua, e sono andato sul sito del Festival delle Resistenze, perdonatemi, delle Resistenze Contemporanee, e non capivo l'immagine, adesso ve la faccio vedere anche voi se non siete stati sul sito. Allora, andate sul sito, è festivalresistenze.it, c'è un bambino che tiene in mano una specie di zolla di terra tra le mani, e poi c'è una cosa che è tipo uno sghiribizzo verde che nasce dalla terra. Ora, esatto, sembra, bravo Bonini, sembra una molla, sembra una piantina che nasce dalla terra, e invece, guardatela bene, è una resistenza. Chi è quel genio del grafico, chi è che i grafici sono che fanno, che ha inventato questa roba? Tra l'altro, la roba più divertente del logo del Festival delle Resistenze è la faccia del bambino, che invece che una zolla di terra sembra avere in mano non so, un mucchio di caramelle o un mucchio di perizomi. Il logo è bellissimo, il logo è veramente bellissimo. Mi scrive Ferdinando sul profilo Facebook: lavoravo in un'azienda che costruiva biciclette. La crisi è stata il mio male, ma anche il mio bene, perché sono rimasto in cassa integrazione, ma ho iniziato a riparare biciclette, e da quando girano meno soldi, le persone preferiscono aggiustare le cose invece che comprare di nuove. Questo è vero, è una del come dire, uno dei corollari, no? di una crisi. La gente compra di meno e aggiusta di più. Quindi alla fine la regola è sempre quella. C'hanno sempre ragione gli idraulici. Sempre, no? È perché aggiustano gli idraulici. L'idraulico, cioè, tu c'è un problema con... Sì, va bene, se uno è capace se lo aggiusta lui e resiste aggiustando, altrimenti chiama l'idraulico. Serena, ho resistito facendo finta di niente, facendo finta di non accorgermi che c'erano meno soldi e meno possibilità. Al momento sta funzionando. Ecco, Serena, non so quanto possa durare, nel senso che se uno fa finta, di solito a un certo punto poi... in qualche modo deve guardarsi in faccia. Carlo, ho resistito alla crisi immaginandomi in un altro mondo, con un altro lavoro, in un altro posto. Ecco, però non capisco se sia solo immaginato o se... Esatto, se è fiction oppure se proprio... cioè è riuscito a immaginarsi in un altro modo, cioè se è riuscito a trovare una via. Antonio, ho 50 anni, questo è un po' come Enzo, e sono stato investito da un giorno all'altro da una crisi di mezza età. Qui si parla di crisi di mezza età, quindi un altro tipo di crisi. Ho resistito nel migliore dei modi, invece che comprarmi una moto l'ho venduta, e invece che cercare un amante più giovane ho chiesto alla mia compagna di sempre di sposarmi. Questo mi sembra un buon modo, resistere alla crisi andando contro gli stereotipi della crisi. 349-238-6666. Ma andiamo a Bolzano in qualche modo, perché come vi dicevo in apertura, tra le varie storie che raccontiamo oggi di resistenze, c'è una storia che più o meno ha un nome, che si chiama Passamano. Visto che la persona che l'ha creato, credo, o che lo gestisce, tra le persone che lo gestiscono, c'è Paolo, sentiamo direttamente Paolo. Pronto Paolo? Ciao. Ciao, come stai? Abbastanza bene, dai. Abbastanza bene. Però ti sento un po' titubante, Paolo. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Assolutamente, che sono pieno di impegni. E allora facciamo in fretta, facciamo in fretta. Senti, sì. Che cos'è Passamano? Spiegamelo in due parole. Allora, Passamano è un luogo, fisico proprio che è qui a Bolzano, in cui appunto avvengono degli scambi. Inizialmente era stato pensato come un luogo di scambio di oggetti, in realtà poi ci siamo resi conto che è diventato qualcosa di molto più grande. Fondamentalmente è diventato un luogo di scambio oltre che di oggetti, e quindi in cui praticamente chiunque può arrivare, prendere e lasciare oggetti usati, sì. Ma soprattutto noi puntiamo molto sul fatto che ci sia uno scambio di opinioni, di idee, di concetti, appunto per resistere in qualche modo a questa crisi che ci circonda. Senti Paolo, perché io... Perdonami, leggo sull'articolo che è stato scritto a proposito di Passamano online, sì. Su Alto A, sul giornale locale che è l'Alto Adige, sì. Letteralmente il titolo era "Apre oggi il negozio dove non si paga", poi oggi era esattamente il 14 sabato d'aprile, scorso. Sabato scorso. Sì. Io la prima cosa che ho pensato, e perdonami la scarsa fantasia, ho pensato al baratto, cioè io vengo lì con una cosa e ne prendo un'altra, però mi sembra di capire che non è così. Beh no, in realtà non è un vero e proprio baratto, nel senso che noi non chiediamo niente in cambio, non vogliamo assolutamente ricadere nelle logiche del mercato abituale per cui c'è uno scambio effettivo. Mm. Innanzitutto noi non c'è chiunque può venire anche solo dare un'occhiata agli scaffali o agli abiti che ci sono, okay. E prendere qualsiasi cosa. Per noi è molto importante più che altro che si creino delle forme di scambio di vissuti e di esperienze delle persone, quindi ma Paolo, perdonami, ecco. Ma so che questa è una logica di mercato, però me la perdonerai, cioè voi come guadagnate? Cioè banalmente l'affitto del negozio come lo pagate? Allora vabbè, l'affitto è stato fondamentalmente il locale è stato messo a disposizione da uno dei ragazzi del gruppo, okay. Perché ovviamente sì, non sono solamente io, siamo un gruppo abbastanza nutrito di persone che si interessano di forme alternative, di esperienze alternative. Mm. L'affitto lo paghiamo... Cioè è a costo zero? È a costo zero il negozio? Tutte le spese, per esempio le spese condominiali, le paghiamo facendo altre attività come cene popolari, ah, okay. In cui appunto vengono riciclati... dei cibi dal mercato, cibi che normalmente vengono scartati, che invece sono assolutamente riutilizzabili. Ma avete cibo anche nei vostri scaffali, quindi? Cioè vendete anche cibo? No, abbiamo un altro, c'è un locale che viene messo a disposizione per attività in cui vengono organizzate ogni domenica delle cene. E quindi ho capito, ma Paolo, tu che cosa fai? Studi, lavori, oltre a questo? Io lavoro. E che lavoro fai? Sono un libero professionista nel campo dell'organizzazione di eventi culturali. Senti, e quanti siete a gestire Passamano? Allora, in linea di massima, attivamente siamo 25-30 persone. Ammazza, in tanti! Sì, cioè, sì. È una roba grossa, quindi. Sì. E facciamo parte di un gruppo che è nato seguendo il movimento delle transition town. E infatti anche questo volevo chiederti, perché l'ho letto sull'articolo che diceva un movimento internazionale chiamato transition town fondato, sì, da Rob Hopkins. Che cos'è più o meno? Rob Hopkins è un ambientalista e ha fondato questo movimento che fondamentalmente parte da precise analisi sia ambientali che economiche e soprattutto dalla previsione di del futuro, per esempio per quanto riguarda il picco del petrolio, okay. Fondamentalmente opera per attuare delle piccole modificazioni sia nelle vite personali di ognuno di noi che appunto a livello comunità, quindi nella costruzione di significati e possibilità di sviluppo. Wow, guarda, è complicatissimo, magari me lo vado a cercare io da solo su internet. Senti, invece, visto che ci siamo, puoi dirci dove si trova? Magari qualcuno passa da Bolzano o è lì e ci viene? Sì. Allora, si trova in Via Rovigo 22 a Bolzano. E gli orari? Gli orari aperto la mattina più o meno 2-3 ore dalle 10 alle 12-13. Uh-huh. E il pomeriggio sempre intorno a 3-4 ore, perché è volontario, è gestito, certo, a volontari, quindi... Lo immagino. Comunque il pomeriggio dalle 16 alle 18, quindi... Va bene, certo. Va bene, un po' come capita quando le persone riescono a tenerlo aperto. Paolo, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Lavoravo in un cotonificio, mi scrive Michela. Quando ho visto che le cose non andavano più come volevo, mi sono messa in proprio e ora faccio la sarta. Insomma, o uno si specializza e fa piccole cose molto chiare, oppure uno come Paolo fa... io non ho capito esattamente bene come... Cioè, nel senso che mi sentivo Nanni Moretti mentre parlavo con lui, che diceva, se ho capito, ma questi vestiti come... li compri? Ma niente, me l'ha dato un mio amico. Le sigarette, come le fumi? Ma guarda, è passato mio fratello, mi ha dato le sigarette. Esatto, si parla di decrescita, giusto? Alla fine di questo stiamo parlando. Di questo stiamo parlando, ma chiudiamo anche, smettiamo di parlarne. Vi rimandiamo ancora al Festival delle Resistenze Contemporanee, da oggi fino al 1° di maggio. Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato le storie oggi. Grazie a Denzo, grazie a Paulino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi, la storia principale di oggi appunto era quella di Enzo e parlava di resistenze. Quella di domani è la storia di Giovanni e parla di incontrare i propri suoceri.